fossi io, viene lento di vagare, una musica brutal encendió nuestra pasión. Melog 2.0 di Gianluca Nicoletti. Io questa mattina avrei fatto un altro argomento rispetto a quello che sto per esporvi, ma perché invece mi occupo di agenzie immobiliari? Perché ieri misi su Facebook, che ormai è diventata non soltanto la mia agenzia, la mia redazione, il mio supporto, il mio sfogatoio, la mia assicurazione per il tempo libero, è diventata anche il mio centro di consulenza per ogni problema. Misi questa esatta domanda ieri sera: perché se si telefona a un'agenzia immobiliare per chiedere informazioni di un appartamento, da un po' di tempo rispondono sempre che comunque questo appartamento è in trattativa? Sì, per motivi miei personali, avevo visto su alcuni giornali specializzati, quelli che si trovano alle edicole, quelli che si regalano per strada, alcune case che potevano in qualche maniera interessarmi, ho cominciato a telefonare, ma vi dico, su 10 telefonate, 8 mi hanno detto è in trattativa. Sembrava molto strano, perché il giornale era uscito quella mattina, possibile che nel giro di poche ore già tutte le case che potevano minimamente interessarmi fossero in trattativa. Beh, allora ho posto questa domanda ai miei amici di Facebook, poi me ne sono andato tranquillamente a dormire e ho trovato questa mattina 80-90 persone che hanno risposto in varie maniere. Qualcuno mi ha dato una risposta abbastanza dettagliata, dice spesso si tratta di annunci civetta, inserzioni fasulle nelle quali si mette qualche elemento che può richiamare potenziali acquirenti, tipo, non so, un attico, una terrazza, una via molto richiesta, un buonissimo prezzo. Infatti quelli che cercavo io erano prezzi particolarmente interessanti. Il pesce a bocca: gli si dice che il gioiellino che gli interessa è stato venduto, che è in trattativa, gli si propone la classica offerta alla romana, una catapecchia al prezzo di un castello in Francia. Dalle mie parti c'è un'agenzia che aveva proporzione di 5 annunci finti per uno vero. In altri casi tratta di immobili veri per i quali l'agenzia non è in carico. Mi spiego: vedono l'annuncio di un privato, di un'altra agenzia, se ne appropriano, quando uno abbocca e risponde all'annuncio dicono appunto che hanno un acquirente in trattativa e gli propongono un'altra cosa. Beh, questo e altre decine di messaggi mi hanno fatto pensare che forse un argomento su cui era il caso di discutere, ma ne discuto con questa esatta chiave. Ho individuato una perplessità, un disagio. Non darò risposte in questa trasmissione perché non ho cercato, non ho avuto modo, tempo, maniera nel giro di mezz'ora di trovare le controparti, gli esperti e chi si giustifica, chi accusa, chi porta numeri. Semplicemente telefonando all'800240024 vorrei questa mattina mi confermassero il piccolissimo indicatore, può dare una pagina su un social network, di una perplessità in un momento in cui si dice che il mercato immobiliare si è rimesso in movimento, che è il momento buono per investire i propri soldi, che insomma per contribuire all'uscita dalla crisi bisogna in qualche maniera movimentare. Ma perché allora quando uno vuole movimentare o cerca di movimentare sul mercato immobiliare trova questa sorta di singolarissima, sarà un caso, sarà una circostanza del tutto fortuita, ma questa singolarissima risposta che l'appartamento è in trattativa? Ciao, sono Stefano, chiamo dalla provincia di Mantova. La mia esperienza con le agenzie immobiliari non è stata propriamente positiva, in quanto nella ricerca di casa mi sono affidato inizialmente a delle agenzie, le quali mi sono accorto che con abilità riuscivano a modificare i prezzi reali degli immobili. Esattamente a me è capitato questo, che cercando degli immobili ti rendi conto che, parlando direttamente col costruttore, hai, diciamo così, delle specifiche dei prezzi, tipo, poi riferendoti alle agenzie i prezzi si trasformano inevitabilmente in altri prezzi con aumenti del 25, 30, 50, anche 70%. Questo è quello che accade in provincia di Mantova. Ecco, questo è uno degli ascoltatori che mi aveva scritto il suo messaggio, che ho contattato questa mattina sempre via Facebook. Questo è un esempio di trasmissione preparata, costruita e alimentata soltanto da una paginetta di profilo su Facebook nel giro di un'ora circa, e mi ha dato una sua testimonianza perché non poteva partecipare in diretta durante la trasmissione perché sta lavorando. Ma lui, come tante altre persone, daranno soltanto delle testimonianze. Ripeto, mettendo subito le mani avanti, chi potrebbe dirmi, ma perché non hai trovato degli esperti che ti rispondessero? Questa mattina preparo il materiale e la percezione generale su un problema. Ritornerò su questo argomento con persone che poi avranno argomenti, avranno circostanziate motivazioni su quello che accade, cercheremo di andare più a fondo. Però stamattina vorrei che all'800240024 ci fossero persone che chiamano e dicono qual è stata la loro esperienza quando si sono rivolte a un'agenzia immobiliare. Quindi a questo punto io ho iniziato a girare per paesi non potendomi più fidare delle agenzie e vedere, ho utilizzato questo trucco, vedere dove ci sono conglomerati in costruzione e lì avvicinarmi con l'auto e vedere se c'erano i cartelli dei costruttori, chiamare direttamente e affidarmi ai costruttori e trattare direttamente con lui. Dopodiché, così con degli amici, per verificare il mio pensiero fosse corretto, abbiamo chiamato delle agenzie che avevano in carico questi immobili e abbiamo verificato che effettivamente le agenzie applicano dei prezzi superiori. In poche parole, le agenzie, aumentando i prezzi degli immobili, riescono a incrementare quello che è anche la loro rendita, perché loro vanno a percentuali. 3% di 100 è un risultato, 3% di 150 è inevitabilmente più alto. Questo è un punto di vista, l'esperienza del nostro ascoltatore, che ha capito che andando a cercare direttamente il costruttore si ha un notevole risparmio. Allora uno si domanda se il prezzo di questa mediazione, di questa funzione, di questo servizio che svolge un'agenzia sia giustificato dal fatto che con un minimo sforzo in più si riesce ad avere un notevole risparmio. Poi è stato divertente che, almeno visto che nel corso della notte gli ascoltatori si sono marzullaniamente posti delle domande e dati delle risposte. Barbara domanda ai suoi amici che si erano dati appuntamento sul mio profilo, dice: qualche mese fa ho chiamato un'agenzia per un appartamento in affitto. La signorina si è rifiutata di organizzarmi una visita perché le davo soltanto il mio numero di telefono cellulare e non avevo un telefono fisso, che non l'avrei dato comunque. Mi ha risposto in malo modo dicendo che se loro si rifiutavano di dare appartamenti in visione chi non avesse il telefono fisso. E si domandava perché. Gli risponde Daniele, dopo circa una mezz'ora, dice: il telefono fisso è un elemento indispensabile per incrociare i dati e analizzare il tuo rating come debitore. Per questo forse non ti hanno preso in considerazione analizzando i potenziali acquirenti a monte. Oggi, per pagare con degli assegni, è necessario fornire un numero fisso. Anche se sei del tutto solvibili, è difficile che accettino un assegno da parte di chi non ha un telefono fisso. Questo è un altro problema che poneva un'ascoltatrice rispetto all'insondabile, misterioso e in qualche maniera interessante mondo delle agenzie immobiliari. La mia esperienza con un'agenzia immobiliare è stata abbastanza traumatica, è stata la mia seconda esperienza, ma vi assicuro che non si ripeterà mai più. Semplicemente è successo questo: per una casa a Milano che io dovevo prendere in affitto, un giorno ho visto un annuncio fuori dal palazzo, mi rivolgo all'agenzia immobiliare e al primo appuntamento, questa che era una casa di ringhiera, che quindi aveva un ballatoio di accesso, mi viene detto che questo ballatoio era di esclusiva pertinenza mia. A fianco alla porta di casa mia vi era un'altra porta. Chiedo che cos'era questa porta, se ci abitava qualcuno o quant'altro, mi viene risposto che era un magazzino con un'entrata cieca e quindi è murata. Firmo il contratto e scopro, quando faccio il trasloco, che la porta non era una porta cieca, ma era una porta di un appartamento di una signora che abitava lì da 20 anni. A questo punto chiedo tramite avvocato la rescissione del contratto. Anche questo è un ascoltatore che ci aveva scritto su Facebook. Questa mattina non poteva intervenire in diretta, come interverranno tra poco molti altri ascoltatori, quindi abbiamo raccolto pochi istanti fa la sua testimonianza. L'agente immobiliare sostiene di non avermi mai detto che il ballatoio era di puro uso esclusivo per me. Naturalmente questo non è vero, perché l'ha detto di fronte a testimoni, quindi continuo a negare, nonostante abbia mandato una mail che sostanzialmente confermava il fatto che ci avesse detto che il ballatoio era in esclusiva. Lei ha semplicemente utilizzato questa promessa, che per noi è stata fondamentale per la scelta della casa, per forzarci in qualche modo, per agevolare la scelta della casa da parte nostra. Inutile dire che il contratto è in via di rescissione, inutile dire che l'agente immobiliare si è preso una bella causa per truffa. Inutile dire che la truffa è un reato penale e che quindi, anche se io scelgo di ritirare la causa, comunque la causa fa il suo corso e quindi si andrà comunque a processo. Il punto è che fino a questo momento io non ho una casa, devo cercarne un'altra e adesso sono in ballo con due avvocati per cercare di dirimere la controversia di un agente immobiliare a dir poco esperto, se non in cattiva fede. 800 24 00 24. Questa mattina raccogliamo semplicemente le osservazioni, le brutte esperienze, poi le sottoporremo a qualcuno in un'altra trasmissione che potrà forse darci delle risposte esatte. Ornella mi scrive su Facebook e mi parla un po' del lessico delle agenzie immobiliari. Conosco bene: delizioso villino, meraviglioso pied a terre, impareggiabile occasione. Lei soprattutto sul termine rustico ha qualcosa da dire. Cioè, andata a vedere sul vocabolario, rustico quel locale che nelle fattorie, nelle ville in cui vengono riposti gli attrezzi agricoli o alloggiati i contadini, soprattutto quando si parla di case. Invece rustico molte volte negli annunci immobiliari dovrebbe indicare un casolare, una casa di particolare pregio, o addirittura poi quando si va a vedere il significato è attribuito a, quando uno legge vendesi rustico, a alcuni pilastri in cemento armato che delimitano una proprietà edificabile venduti al prezzo di una casa vera. Enrico, buongiorno. Buongiorno. Intanto la saluto a lei e a tutti gli ascoltatori. Faccio complimenti per la sua simpatia e competenza. Niente, io volevo brevemente fare una testimonianza poi in generale, cioè il discorso della commissione che prendono le agenzie immobiliari. Io ho acquistato un appartamento nel 2006 in Veneto, dopo aver contattato decine di agenzie, e loro si attengono scrupolosamente al 3% regolamentare della commissione sul prezzo di acquisto. Ora, la mia domanda è questa, cioè la mia riflessione. Le case sono aumentate dalla lira all'euro, cioè quindi negli ultimi 10 anni, mediamente sono aumentate quasi del doppio, se non insomma 80% come prezzo, e le motivazioni supposte o meno sono l'aumento del costo dei materiali, l'aumento delle licenze, in parte questo è sicuramente vero, mentre la manodopera, che penso che sia una gran parte del costo, senz'altro non è aumentata del doppio, no? A parte questo, quindi... Comunque chi ha comprato in lire e poi rivende in euro ha fatto un buon affare. Sì, se ha un'altra casa, se è l'unica, comunque deve comprare un'altra, quindi siamo sempre lì. A parte quello, io parlo da proprietario di un'unica casa per non pagare l'affitto. Quello che mi chiedo, perché il governo non interviene, visto che il 3% su X è una cosa, il 3% su 2X è il doppio, visto che sono aumentati, è aumentato il prezzo. Le spese invece di queste agenzie, io parlo da profano, però è il loro tempo, cioè loro vanno in giro, carte, e se hanno dei dipendenti certo non li pagano il doppio di prima. Quindi ci marciano. Io su tante agenzie che ho contattato, poi ne ho trovata una con cui purtroppo poi non siamo riusciti. Adesso non voglio entrare nello specifico, ma se agiscono nei termini di legge è il loro pieno diritto a farlo. Sì, io contesto la legge. Cioè, prendiamo atto di questo. Non ho in questo momento, le ripeto, gli interlocutori per poter discutere. Giusto, prendo per buona la sua osservazione, però quello che mi aspetto questa mattina è testimonianze di vita vissuta, come penso che, immagino, sia il caso di Francesco. Francesco, buongiorno. Buongiorno a te, Gianluca. Complimenti per la trasmissione. Vabbè, basta, sempre questi complimenti. La verità è... No, grazie, io dico che questa mattina ho improvvisato questa trasmissione perché tu sei fra i tanti che... hanno immediatamente riempito il profilo di Facebook con argomentazioni talmente convincenti e appassionate sul problema di chi cerca casa e chi probabilmente vuol vendere casa, che mi sembrava giusto darvi voce. Vediamo il tuo problema. Sostanzialmente quello che già ti spiegavo, appunto, è una strategia precisa, quella appunto di rispondere che l'appartamento è in trattativa. Quindi non è accaduto solo a me, vedo che è diffusa, no. Come... È diffusa, è una tecnica proprio di marketing che comunque accomuna la vendita dei servizi in genere. Nel caso specifico il cliente viene allettato, quindi con qualcosa di appetibile, per lo più falsa o comunque non corrispondente al vero, appunto l'esempio che facevi tu. Quindi le migliori occasioni, una mattina dici guarda questa casa me la potrei quasi permettere, che bello, esatto. Telefono subito, e poi esatto. È sempre in trattativa e quindi a quel punto cercano appunto di propinare qualcosa di diverso, qualcosa che poi hanno realmente, e se non ci dovesse essere un riscontro, che cosa accade? Che l'importante per l'agenzia immobiliare è di creare una scheda cliente. Ti profilano, sei profilato, quindi ormai sei dentro sì. Il giro. Sì, quindi un recapito telefonico diciamo, va a implementare una banca dati che per loro è fondamentale nel lavoro. Poi tornerò io in seconda parte di questa trasmissione, un argomento che mi è caro per chi mi segue in questi ultimi anni, quello degli agenti immobiliari nella loro funzione di beccamorti, cioè quando in una casa si sa o gira voce o vedono il portone aperto a metà che qualche vecchietta è passata a miglior vita, non si campa più. Ieri mattina ancora mi ha raccontato mia moglie che ci ha fonato un signore dicendo: guardi, sono un amico del figlio della tal signora di cui non dico il nome, ahimè deceduta qualche mese fa, cercavo il mio amico. Questa signora è nata e morta a Zitella, quindi lo trovavo del tutto improbabile, però questo ne è testimonianza. Prego, continua, scusa Francesco. No, dicevo, anche di peggio, poi, insomma, se dovessimo entrare nello specifico, o alcuni racconti, piuttosto... potrebbero anche seccare l'agente immobiliare serio, come sicuramente... Vabbè, fammene uno, senza fare nomi, così almeno mi diverto un po'. Sì, diciamo che è un periodo di grande giungla, anche per la crisi sicuramente, però... Sì, ma il paradosso, non trovi, in questo momento in cui si dice che comunque i prezzi potrebbero tornare accessibili, che in effetti investire è la maniera migliore, non tenersi i soldi fermi e tutto, improvvisamente il mercato delle case sembra bloccato. Sì, è perché comunque vogliono tanto investire, ma poi alla fine ci sono delle difficoltà, perché ci sono aziende immobiliari, cioè franchising eccetera eccetera, che alzano molto i prezzi. Eccolo, vai al tuo episodio che mi interessava. È un episodio di un ufficio, di una persona che conosco, che appunto lui lo stava smantellando perché ahimè è stato preso anche lui nel vortice della crisi, e si sono praticamente inseriti in un contesto con porte aperte questi due signori vestiti anche abbastanza bene, facendo tante domande, ma di chi è l'appartamento, lo state lasciando, cioè proprio veramente... Se avevano dei pantaloni molto stretti in fondo, delle scarpe gialle e un giubbotto imbottito senza maniche e una cravatta molto grossa e il colletto alto, erano agenti immobiliari. Più delle volte sì. È la loro divisa questa, sì. Sì, in linea di massima, sì. Quindi è un... Ripeto, questo però non deve andare a ledere magari una figura di un agente. Ma non vogliamo generalizzare, è chiaro, però che esistano questi episodi è innegabile, perché mi stanno arrivando valanghe di telefonate, quindi non vogliamo mettere sotto accusa l'intera categoria che svolgerà un ottimo, interessante e utile lavoro, ma però dobbiamo notare e far notare che esiste comunque un disagio avvertibile. Sentiamo Daniela. Daniela, buongiorno. Buongiorno. Daniela, tu hai gestito un'agenzia immobiliare, lo so perché l'ho letto nel tuo profilo. Quindi, ecco, tu in qualche modo forse puoi rappresentare l'altro versante, quello che in questo momento sembra essere sotto schiaffo. Sì, effettivamente diciamo che molte cose che hanno detto gli ascoltatori sono giuste, nel senso che esiste una certa giungla in questo ambiente. Però è anche vero che dall'altra parte ci sono delle persone che hanno sempre fatto il loro lavoro con una certa serietà. Cioè, per quanto riguarda, volevo specificare il discorso che diceva della realtà, delle percentuali. Intanto non è una legge, cioè praticamente le Camere di Commercio danno un'indicazione e ti consigliano, a seconda delle usi e consuetudini del luogo, ti consigliano o il 2 o il 3 a chi vende e a chi acquista. Chi non sa, specialmente, insomma, o perlomeno per quanto riguarda la realtà di Viareggio e della nostra zona, cioè praticamente chi acquista deve pagare meno di chi compra. Ora, l'agente... Scusami Daniela, altro problema che mi è stato posto ieri, proprio per strada. È normale che un'agenzia che medi un affitto di un appartamento poi prenda il 10% dell'affitto anno di quell'appartamento? No, diciamo che attualmente prendono una mensilità, non più un 10%. Beh, una mensilità, sai, una mensilità è più o meno corrisponde al 10% anno. Anche di più. Io, anzi, anche più una mensilità. Il 10%, sinceramente, perché ho ritenuto che di non andare a una mensilità, che praticamente il 10% è la metà di una mensilità all'incirca. Sì, più però, o meno. Questo è vero, il discorso è questo, che in Italia io quando feci l'esame non è mai stata, cioè non c'è una legge che punisce l'agente immobiliare, c'è teoricamente ma non c'è poi in pratica, perché ci sono colleghi che io ho avuto che avevano una persona 23 denunce. Cioè, continuano oppure... Sì, questo mi sta arrivando anche a me, molte segnalazioni che comunque esiste comunque una ahimè possibilità di reiterare operazioni non sempre chiare, non sempre trasparenti. ero convinto che questo sarebbe stato un argomento che le persone sentono molto vicino alla loro esperienza. Sono bombardato da una parte delle telefonate, da una parte dei messaggi su Facebook che vogliono tutti aggiungere qualcosa all'esperienza collettiva con l'agenzia immobiliare. Fa una proposta Bruno, in questo momento lo sto leggendo nel mio profilo, dice: sarebbe interessante riuscire a creare un'area di comunicazione e interscambio fra proprietari di appartamenti che vogliono o vendere o comprare, in cui sia tassativo il fatto che non vogliamo di mezzo le agenzie. Ma molte volte anche nei siti in cui apparentemente sembra che sia una trattativa tra privati, tra proprietari, in realtà molti di questi pseudo proprietari sono agenti camuffati. Beh, io sulla figura dell'agente immobiliare, sull'immaginario di questa figura, ho molto ricamato in passato e ancora, ahimè, ne sto subendo le conseguenze nella mia macerata coscienza, ma ero abbastanza pressato in certi periodi della mia esistenza da questi signori, un po' per la zona in cui abitavo, un po' perché abitavo in un quartiere, in un palazzo in cui c'erano molti inquilini statisticamente anziani, quindi facilmente ogni tanto qualcuno moriva, quindi io di questi signori venivo tanti in giro e tanti venivano a bussare alla mia porta. Li avevo identificati con una sorta di divisa, innanzitutto giravano tutti, almeno a Roma, con questi scooteroni giganteschi, hanno delle scarpe gialle molto appuntite, molto vistose, e il piedino lo tengono sempre sporto rispetto al pedrellino del loro scooterone. Hanno dei pantaloni strettissimi in fondo, che non ho mai capito se li cuciono addosso, come fanno a uscire dal polpaccio. Hanno degli abiti blu apparentemente di buon taglio, hanno delle camicie con i colli altissimi, addirittura ho contato 3 bottoni per chiudere il colletto, camicie che si chiude il colletto a 3 bottoni, non so dove le facciano, dove le comprano, di conseguenza delle cravatte dal nodo smisurato, gigantesco, e portano sia estate, inverno e primavera sempre quella sorta di piumino giaccavento senza maniche, non so perché piace tanto. Mi fa notare Paolo Corleone che non lo addosso io, questo che addosso io non è la foderina della mia giacca, non è un piumino senza maniche, loro lo portano fuori estate, inverno, perché escano le maniche della giacca dal piumino e questi grossi polsini sempre con dei gemelli. Beh, su questo in passato raccolsi sia testimonianza, conferma, sia proteste. Io ho abitato in una zona che era vittima di questi agenti che noi tutti quanti, quando li vedevamo, soprannominavamo Becchini, perché sempre con questo completo nero. A parere mio le immobiliari hanno fatto che salire i prezzi delle case alle stelle. Ci sono delle case fatiscenti, fatti pagare a prezzi alle stelle. Oggi pomeriggio mi ha telefonato l'agente immobiliare chiedendo se era in vendita l'appartamento a fianco al mio e se sapevo qualcosa di appartamento in vendita nel mio palazzo. Sono rimasta fulminata. Logicamente l'ho mandato a morire ammazzato subito. Però pensavo, data la mia età, di essere indenne dallo sciacallaggio immobiliare. Sono veramente basita. Questa signora sentiva l'alito della morte sulla sua nuca, perché se chiama l'agente immobiliare vuol dire che c'è un morto fresco in casa o un morituro da qualche parte del suo appartamento, quindi giustamente faccia gli scongiuri. Alberto, buongiorno. Buongiorno, signor Nicoletti. Lei ha lavorato in un'agenzia? Io ho fatto un sacco di esperienze, ho lavorato in agenzia. Ma lei è un pentito o un sostenitore della causa? Beh, io sono un forte sostenitore della causa, perché comunque un'agenzia è un mezzo in cui comunque si incontra domanda e offerta, e come istituzione economica meno è né la prima né, diciamo, l'ultima, è comunque necessario al processo economico, l'intermediazione. Ma certo, quindi, chiedo, ma non vogliamo mettere in dubbio l'esistenza delle agenzie, vogliamo far capire comunque che in questa categoria utilissima e indispensabile alla nostra sopravvivenza esistono delle sacche di perplessità, ecco, questo almeno. Perplessità principe addirittura il fatto che si possano occupare come attività di intermediazione solo ed esclusivamente, per esempio, del mercato dell'usato, il che rappresenta una anomalia rispetto a una normale attività commerciale, quale quella e imprenditoriale, quale quella dell'agente, no? Quindi è già un'anomalia questa. Se ci fossero nuove proposte, nuove costruzioni, grossi scambi commerciali. Vabbè, l'agenzia immobiliare può anche vendere appartamenti appena costruiti, Sì, rispetto però alla massa che tratta l'agenzia è infinitesima. Sì, beh, grazie, una città in un centro storico è logico vende appartamenti usati, è chiaro, sì. E infatti questa è già un'anomalia, perché volendo trattare, se ci fosse abbondanza di offerte di costruzioni nuove, le agenzie tratterebbero anche merce nuova, e quindi questa già potrebbe rappresentare un'anomalia che caratterizza appunto l'aggressività sul mercato di questi soggetti, perché è data la scarsità dell'offerta, sia nel reperimento delle acquisizioni che comunque tendono, contrariamente come ha detto qualcuno prima in segreteria telefonica da lei, tendono addirittura ad essere ribassiste le agenzie immobiliari per un calcolo economico. Insomma, diciamo che influiscono fortemente sul mercato, ecco, questo è ma dalla sua esperienza invece lei cosa faceva? La mia esperienza, io subito dopo una tesi che appunto riguardava degli immobili, ho lavorato per non molto tempo nel settore delle agenzie immobiliari, poi come comunque con qualsiasi cittadino mi sono trovato anch'io come cliente, e devo dire che per diciamo più volte, e quindi posso dire che sì, è tutto perfezionabile, comunque c'è una tecnica principe dell'agente immobiliare che è tendenzialmente ribassista rispetto al prezzo di mercato degli immobili. Ecco, sentiamo se è d'accordo Daniela, la signora che sentivamo prima, ex agente immobiliare. Daniela, non ho ben capito il suo collega, perché afferma che il ribassismo siano delle tecniche degli agenti immobiliari. Lo trovo un po' difficile da capire. No, devo dire una cosa. Il mercato ha avuto un'evoluzione. Cioè, negli anni passati, quando io ho iniziato, che era l'89, era interessante fare gli acquisti tramite le imprese, perché a parte diciamo che c'era un'IVA e tutto il resto, però il prezzo era inferiore al privato. Poi nel tempo, in quel periodo lì, sono accaduti dei fatti spiacevoli, perché praticamente esistevano gli speculatori, arrivavano persone che facevano i mestieri questi, non gli agenti immobiliari, ovviamente alcuni supportati dagli agenti immobiliari, di cui io me ne tolgo perché non l'ho mai fatto, chiamavano quelle persone e compravano su compromesso un appartamento e lo rivendevano dopo una settimana, 10 giorni, magari aumentato di 10-20 milioni. E c'è gente che veramente ci ha fatto tanti soldi. Allora, in questo senso, adesso mi sta scrivendo Ennio su Facebook, dice sì, è ribassista, ho lavorato anch'io tanti anni in una famosa agenzia immobiliare, e quando c'è bisogno di far fatturato, naturalmente si fa questa tecnica, si mette a punto questa tecnica che lei sta dicendo. Grazie Daniela, e torniamo al punto di vista, in realtà, visto che gli agenti immobiliari hanno parlato abbastanza, di chi se li vede arrivare a casa. Siccome parlate dei mediatori delle case, io non passa mese che non mi venga sollecitata, venda questa casa, lei non c'è mai, che mi telefonano, ma se io a fine settimana vado a casa, dov'è che vado? Devo andare a casa mia. Ogni volta che arrivo a casa c'è una bella o una lettera o un se la vendo, che non si sa proprio come liberarsene. Ma io non so se sono affetto da paura irrazionale, a me sembra una paura razionale, perché sono dei personaggi che una volta contattati ti perseguitano per mesi e mesi. E io devo lavorare anni per guadagnare quelli che loro guadagnano con una semplice vendita, e poi ti perseguitano. Davide, buongiorno, proprietario di due case, è riuscito a comprarle sviando i trabocchetti, come ha fatto? Per puro caso, ma in realtà poi alla fine dei trabocchetti ci si cade comunque. Ad esempio questa ultima che siamo riusciti a comprare dopo 4 anni di ricerche spasmodiche, abbiamo scoperto dopo aver firmato il preliminare, dopo aver versato praticamente la metà, quindi perché era una casa in costruzione, l'avevamo comprata sulla carta, come si suol dire, abbiamo scoperto che non avevano previsto una penale, quindi in realtà una casa che dovevano consegnarci a marzo 2008, ancora ora dobbiamo vederla. Cioè, questo è l'iter di tanti amici miei che hanno fatto questo tipo di operazione, che dopo anni ancora vanno lì e guardano le finestre senza infissi, dicono quando questa sarà la mia casetta. Però questo sono cautele che dovrebbe avere la persona che acquista, se dà un senso ai soldi che spende. Non ci esatto, questa è solo l'ultima. Ad esempio, prima di trovare questa, io avevo comprato un'altra casa piccola perché avevo avuto la possibilità di prenderla e dopo aver firmato il preliminare, che lei sa, credo ci sia una penale del 10%, no? Sulla somma versata preliminare, l'agente immobiliare mi richiama perché aveva nel frattempo ricevuto un'altra proposta, mi aveva chiamato proponendomi strappiamo il preliminare perché questa signora mi offre 20.000 euro in più e quei 20.000 euro ce li dividiamo io e lei. Questa era una delle tante cose. Vabbè, se uno ci sta è lecito. Beh, insomma, non è, però uno da un agente immobiliare si aspetta anche un minimo di professionalità. Però ci avrà provato, però non mi sembra questo. Sì, è paradossale questa richiesta, devo dire paradossale, ma dal mio punto di vista è anche indicatrice di una grande fantasia. Ho detto faccio il colpaccio. Sì, se ti interessa, uno ci prova. Grazie Davide. Carmelo, per chiudere, agente immobiliare. Carmelo? Pronto? Ecco Carmelo, sì. Sì, ciao. Io sono un agente immobiliare e ho visto che sono in servizio effettivo. Sì, da 12 anni, da 12 anni. Allora, innanzitutto volevo dire una cosa che secondo me è completamente errata. Noi non abbiamo il potere di modificare il mercato, anzi, noi lo assecondiamo. Nel senso che noi mettiamo in contatto la domanda con l'offerta. Okay. Quindi se la domanda è molto alta è ovvio che i prezzi salgono. Nel momento in cui vado a fare una valutazione di un immobile io mi baso sulle richieste che ho in ufficio. Se ho richieste per un bilocale che possono essere di 100.000 euro, faccio un esempio molto semplice, e la proprietaria ne volesse soltanto 90, la sua casa vale 100, non vale 90. Di conseguenza la valuto 90, la valuto 100. Diciamo che la bravura del vostro mestiere è riuscire a soddisfare allora chi mette la casa in vendita e fa una richiesta che secondo lui è quella giusta, che secondo magari chi deve comprare è esagerata, e quindi bravi siete in quanto riuscite a secondarlo. Melog 2.0. Sono agente immobiliare. Concordo con molte persone che sono titubanti nei confronti degli agenti immobiliari in quanto ci sono veramente dei sciacalli e dei meschini. Purtroppo, se un dottore sbaglia la diagnosi, non è detto che tutti i dottori siano degli incompetenti. Le vorrei dire poche parole sull'agente immobiliare. La disonestà impersonificata. Ciao Nicoletti, io sono una nonna, anche a me telefonano per la casa, ma che fastidio vuoi che diano, sono ragazzi che devono lavorare. E allora, dici che non ti interessa, è finita lì, quando chiamano per vendere il vino, dico che sono astemia, è finita lì, ci auguriamo la buonasera, è finita lì. Cosa c'è di così drammatico? Quando chiamano per sapere se sei morta, tu dici che sei ancora viva, nulla di drammatico, naturalmente. Carmelo... Sì. È ancora in linea? Ecco. Sì, sono ancora qui. Su questo pressing spinto di questi signori che tu non riconoscerai come i tuoi colleghi, cosa hai da dire? No, io volevo tornare al discorso. Sì, però rispondi anche a me, poi dopo torni al discorso. Ripetimi la domanda, scusa. No, dico, questo fatto della presenza, diciamo, pressante di signori che ti vengono a chiedere continuamente se la tua casa si è in vendita, se è in affitto, che entrano nelle case, che fingono di essere privati negli annunci internet, in realtà fanno parte di agenzie, che insomma hanno anche maniere piuttosto virali di mettersi e di proporsi come intermediari delle case. Sono sistemi, metodologie che giudichi corrette? E purtroppo non se ne può fare a meno, è la logica del mercato, perché se non lo faccio io lo fa un altro. Se ci fosse un'idea delle agenzie immobiliari un po' più anglosassone, viste come dei professionisti, il proprietario di casa prima ancora di mettere in vendita si rivolge all'agenzia immobiliare, e un'agenzia ovviamente seria, con patentini, con certificazioni, un'agenzia professionalmente valida, a questo punto tutta questa parte di ricerca spasmodica degli immobili da vendere sparirebbe in automatico. Per noi è fondamentale riuscire ad arrivare per primi sull'immobile che è potenzialmente in vendita, proprio per poter contattare il proprietario, instaurare con lui un rapporto di fiducia con l'agente immobiliare, non col nome, col gruppo, col marchio, proprio perché la casa è un valore importante per l'italiano e di conseguenza il proprietario si affida all'agente immobiliare che gli ha ispirato fiducia. Ecco, ma come quindi, ti spieghi arrivare... che adesso il grande sogno, il grande desiderio sia di chi debba vendere, chi debba acquistare, è sintetizzabile in una frase: no agenzie. Ci si affida alla rete come ci si affida, ti dico, a un luogo per incontri clandestini e promiscui. Uno cerca proprietari o acquirenti di appartamenti come cercasse dei fidanzati o dei compagni di avventure, cercando di stare nascosti senza che l'agenzia entri in questo tipo di rapporto. Qualcosa ci sarà nel sistema che non funziona, se c'è questo bisogno di intimità lontano dall'occhio delle agenzie. Sì, perché proprietari e acquirenti ritengono, e probabilmente in molti casi sono capaci di farlo, di poter compravendere l'immobile da soli, ma oggi non è così, non è così semplice. L'agente immobiliare, il buon agente immobiliare, sa dare buoni consigli e sa portare a termine la compravendita facendo in modo che non ci siano rischi per entrambe le parti. Io ti faccio l'avvocato del diavolo, per la minima esperienza che ho. Io riesco a conoscere un amico che ha un appartamento che a me interessa, o io un appartamento voglio vendere a un amico. L'amico potrebbe darmi una fregatura, quindi io mi rivolgo a un tecnico, quindi un architetto, un ingegnere, un geometra, che mi faccia una perizia dettagliata sullo stato dell'appartamento. Quindi per la parte tecnica sto a posto. Il mio notaio di fiducia farà tutte le ricerche possibili e immaginabili, perché io compro una casa su cui non gravano ipoteche, su cui abbia certezza della proprietà, che non ci siano problemi, via dicendo. Con questo sono cautelato, cos'altro mi dà l'agenzia in più? Ah, molto di più. Innanzitutto, non per screditare la categoria dei... Non la sto screditando. Io non voglio screditare la categoria degli architetti, dei geometri. No, ma io parlo di persone di fiducia, vado dal mio architetto, vado dal mio notaio. No, non ha importanza, il tuo architetto non fa l'agente immobiliare, non fa compravendite quotidiane di case. Sì, ma mi dice se a posto come impianti, come struttura, vi fa un'analisi precisa. Ma tu che devi comprare, sì certo. Però ipotizza che il proprietario di casa debba vendere e comprare un immobile. Il bilocale vuole trasferirsi in un trilocale perché gli è nato un figlio. Deve sapere che prima deve vendere il suo immobile e poi acquistare quell'altro, altrimenti pagherebbe il secondo immobile come seconda casa e non come prima casa, quindi una tassazione maggiore. E questo è un consiglio ed è una metodologia. Quindi un'operazione di consulenza concreta e reale, basata sull'esperienza. Se tu fossi il mio consulente di fiducia, non ti conosco, verrei da te e tu, logicamente, la tua professione sarebbe darmi questi consigli. Ma qua parliamo della faccia illuminata della luna. Quello che questa mattina cercavo di fare era mostrare gli aspetti meno percepibili. Sentiamo un attimo Federico. Federico, buongiorno. Buongiorno. Lei ha lavorato per quasi 10 anni in studi notarili. Io ho lavorato in studi notarili, anche se non mi occupavo personalmente dell'immobiliario, seguivo il settore societario, però ne ho visti passare molti e comunque i miei colleghi, chiaramente lavorando braccio a braccio, insomma le esperienze si vedono. Allora, un aspetto che andrebbe un momento approfondito, che è quello delle commissioni. Allora, da pochi anni, da 2-3 anni, c'è l'obbligo di dichiarare atto da parte di acquirente e venditore se si sono serviti o meno di un mediatore e quindi dichiarare la cifra eccetera. Questo è il portiere che vuole la mancia, però sa, questo è un commissione il portiere vuole la mancia, quello attiene alla ricerca dell'immobile ed è un discorso dell'agente immobiliare per la sua acquisizione. No, mette caso, a me segnala un portiere una casa che vendono nel suo appartamento, non è che me lo fa gratis, vuole una percentuale, sempre al nero poi. Quello sì, no, è ovvio, io acquirente o io venditore devo dichiarare in atto pubblico se mi sono servito o meno di un mediatore professionista, quindi di un agente immobiliare, e quindi dichiarare l'introito. Prima questo non avveniva. C'è però un aspetto che andrebbe approfondito. Il cliente non sa che ovviamente può capitare spesso, scusi se uso il dubitativo, ma è ovvio, è un po' è ironico, che il professionista immobiliare, per portare quel cliente da quel notaio, ovviamente chiede un qualche cosa. Ho capito. Va a finire questo qualche cosa? Sì, beh, però sarebbe bene che ognuno si rivolgesse ai professionisti di sua fiducia con i quali ha già avuto un rapporto consolidato per tradizione familiare o per conoscenza. Beh, vedo che l'argomento è interessante. Non fa parte, devo dire, delle corde che tocco con maggiore vivacità. Però devo dire che questa mattina ho capito che ho messo il dito in un problema che è realmente sentito e ne sono contento. A lunedì. Lasciate un messaggio alla segreteria telefonica di Melog. 828 1111. Melog va in replica questa sera alle 22. Melog 2.0.